tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Renzi rilancia il ponte sullo stretto di Messina, va fatto, può creare 100.000 posti. Oggi il varo del DEF si valuta la 14ª per le pensioni sopra i 1.000 euro. Dibattito per le presidenziali americane, vince Clinton con il 62% delle preferenze tra gli intervistati, ma è solo il primo round di tre. Via anche Tutino, il magistrato della Corte dei Conti si sfila e rinuncia a fare l'assessore al bilancio di Roma. Ma anche il settore auto pesano ancora sui mercati, Milano perde un punto percentuale, meglio le altre piazze finanziarie europee. Mancano lavoratori in tribunale, a Bari, sostituiti con i barellieri della Croce Rossa, i sindacati minacciano sciopero. Amatrice, alcune case di legno non rispettano il piano regolatore, bisogna rimuoverle, la burocrazia rallenta la ripresa della vita dopo il sisma. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it se ci volete scrivere, tanto per critiche e complimenti, quanto eventualmente per segnalare storie che ritenete possano entrare nel nostro giro per l'Italia. Iniziamo il nostro giro invece tra le notizie da Milano, dove è in visita il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha parlato di ponte sullo stretto. Raffaella Calandra, ciao, buongiorno. Sì, Simone, ha parlato di ponte non solo in questa nuova intensa giornata milanese per Matteo Renzi, che è diventata una nuova occasione per disegnare la sua Italia del futuro, un'Italia dove si realizza appunto il ponte sullo stretto di Messina, si realizza la banda larga, si interrompono i tagli orizzontali nella sanità e si crea un grande centro di ricerca mondiale. Tre tappe oggi per il Premier, prima all'ospedale San Raffaele, poi ai 150 anni dell'Impregilo, quindi qui al Teatro Piccolo per la presentazione del progetto Human Tecmopol, ed è qui che ha appena finito di parlare. Completeremo il grande progetto Napoli-Palermo, può creare 100.000 posti di lavoro. Non lo chiama esplicitamente Ponte di Messina, ma è su questa infrastruttura che il Premier torna a puntare l'attenzione, perché appunto può creare 100.000 posti di lavoro e toglierebbe l'isolamento della Calabria e renderebbe la Sicilia più vicina. Un annuncio che subito fa rilanciare l'ex ministro Maurizio Lupi, che chiede così di inserire nel calendario dei prossimi tre mesi dei lavori di Parlamento la loro proposta per il ponte di Messina. Precedentemente appunto all'ospedale San Raffaele il Premier aveva dato delle rassicurazioni ai medici preoccupati sui tagli nella sanità, dicendo che in Italia si è tagliato fin troppo appunto sulla sanità, quindi basta tagli. Quindi qui al Teatro Piccolo sono state date le prossime tappe per la realizzazione di questo grande progetto di ricerca che dovrebbe sorgere nell'area del Post Expo. A gennaio, ha detto il ministro Martina, ci dovrebbe essere la prima pietra, e Renzi ha concluso elogiando le città che raccolgono la sfida, ha detto con un riferimento vagamente polemico con Roma. E per ora è tutto. E grazie Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Intanto oggi il governo dovrebbe approvare il DEF. Ultimi ritocchi per la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che approderà in serata in Consiglio dei Ministri. La trattativa con Bruxelles su una flessibilità aggiuntiva per la legge di stabilità 2017 alle battute finali. Il governo punta a strappare all'Unione Europea il via libera sull'esclusione delle spese per il terremoto di Amatrice e per i migranti dal patto di stabilità, che fissa il rapporto deficit-PIL al 3%, un margine di manovra complessivo dell'ordine dello 0,4%. Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, lo ha ribadito ieri sera. E se l'Unione Europea sarà contraria, ha detto, si fa lo stesso. Il governo sta limando le stime della crescita per l'anno in corso, che dovrebbe attestarsi tra lo 0,8 e lo 0,9% invece dell'1,2% previsto. Una crescita stentata che impatterà anche sugli altri numeri, incluso il rapporto deficit-PIL, attualmente stimato al 2,3%. La manovra economica intanto viaggia verso i 24 miliardi di euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sul fronte economico il grande tema al centro dell'attenzione è quello delle pensioni, tanto quello delle quattordicesime, ne ha parlato Renzi ieri, quanto quello dell'anticipo pensionistico. Domani ci sarà una riunione a quanto pare decisiva tra governo e sindacati. Governo e sindacati si vedranno dunque domani pomeriggio, un incontro slittato di 24 ore per dare modo all'esecutivo di esaminare il DEF. Solo con il nuovo quadro macroeconomico infatti si potrà capire quante risorse potranno essere stanziate per gli interventi previdenziali, ma intanto il premier Renzi ha già annunciato l'intenzione di raddoppiare le quattordicesime sulle pensioni minime ed estendere la misura agli assegni fino ai 1000 euro, confermato poi l'intervento sull'anticipo pensionistico, per il quale dovrebbe essere stanziato 500 milioni di euro, con misure differenti a seconda della situazione di coloro che sono vicini alla pensione. Il costo dell'anticipo verrebbe pagato per genitori di figli disabili, esodati o lavoratori impegnati in lavori usuranti. Tra gli altri capitoli del dossier sul quale si cercherà di chiudere un'intesa domani, l'intervento sui lavoratori precoci, l'estensione a tutti i pensionati del limite per la no tax area, l'intenzione di intervenire sui lavoratori usuranti e sulle ricongiunzioni onerose consentendo il cumulo dei contributi versati in gestioni diverse. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E veniamo alla politica, perché è notizia di poco fa che la giunta Raggi deve affrontare un'altra rinuncia, quella di Tutino. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così, a Roma era attesa in settimana, ma a quanto pare sembra invece destinata ad allontanarsi di nuovo. La nomina del nuovo assessore al bilancio sembrava fatta, lo dicevi, per Salvatore Tutino. Oggi però il magistrato della Corte dei Conti ha deciso di ritirare la sua disponibilità. Da diversi giorni sono sulla graticola, non posso accettare accuse totalmente infondate che minano i presupposti per fare un buon lavoro, ha spiegato all'agenzia ADN Cronos Tutino, che, lo ricordiamo, in passato era stato criticato e additato, diciamo, come esempio della casta da Carla Ruocco, ma anche da Roberto Fico, del direttorio del Movimento 5 Stelle, per alcune norme del governo Letta di cui il magistrato aveva beneficiato. Comunque una nuova grana, possiamo dire, per la sindaca Virginia Raggi, che, lo ricordiamo, per completare la sua squadra deve ancora nominare, oltre all'assessore al bilancio, figura centrale, anche il capo di gabinetto e il nuovo assessore alle partecipate. Nel pomeriggio la prima cittadina sarà anche ascoltata in commissione al Senato dopo il suo no, che ha fatto molto discutere, alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, una decisione che giovedì dovrà essere ratificata dall'Assemblea Capitolina. Simone. E grazie a Andrea Viali per questo aggiornamento. Veniamo alla politica invece internazionale, quella degli Stati Uniti. Ieri il primo dibattito tra Trump e Clinton. Lei, graffiante in rosso, decisa a sfatare i dubbi che aleggiano sulla sua salute, e lui in un pacato vestito blu nel tentativo di mostrarsi più istituzionale e pronto quindi per la Casa Bianca. Alla fine però Trump è apparso più in difficoltà, più sfocato, e il primo dei tre round di dibattiti televisivi se lo è aggiudicato Hillary Clinton. La candidata democratica ha dato il meglio di sé negli attacchi personali diretti a screditare Trump, dipingendolo come un ricco viziato che non mostra la sua dichiarazione dei redditi, che ha portato per ben 6 volte i libri in tribunale, e alludendo all'opacità con la quale ha gestito i suoi affari. Divulgherò la mia dichiarazione dei redditi quando lei mostrerà le sue 33.000 mail segrete, ha ribattuto Trump, che ha accusato Hillary di aver prodotto quel disastro in Medio Oriente che ha dato vita all'ISIS. Alla fine lui ha affondato sulla questione della salute della candidata. I don't believe she does have the stamina to be president of this country. Non credo che abbia la tempra per fare il presidente di questo paese, ha detto Trump. Lei, sorridente, ribatte: prima di parlare deve dimostrare di poter visitare 112 paesi come ho fatto io. As soon as he travels to 112 countries and negotiates, he can talk to me about stamina. Prossimo round in Missouri il 9 di ottobre. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alla giornata dei mercati, mercati che sono negativi quantomeno per Milano, che cede lo 0,89%, e negative sono anche le altre borse europee. Francoforte cede lo 0,76%. In Germania in particolare pesano due fatti: le vicende di Deutsche Bank, e ci arriveremo tra un attimo, ma anche evidentemente quelle di Volkswagen, un po' come tutto il settore auto, che oggi non sta andando bene. Andrea Malan del Sole 24 Ore, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti. Per parlare con te proprio del settore auto e dei risarcimenti che potrebbero essere richiesti a Volkswagen, Andrea, no? Sì, sappiamo che Volkswagen ha firmato nei mesi scorsi uno un accordo extragiudiziale che vale circa 15 miliardi di dollari per quanto riguarda le cause civili e i risarcimenti ai consumatori americani. Però è ancora appunto sottoposta alle cause penali e il Dipartimento della Giustizia americana ha iniziato a negoziare appunto la possibile multa colossale. Non si sa ancora quale possa essere l'ammontare e delle voci appunto riportate stamattina hanno fatto ipotizzare che gli americani praticamente punterebbero a imporre la multa massima possibile tale da non far fallire Volkswagen, quindi sparando molto in alto. La cosa diciamo da considerare è che finora nei casi relativi al settore auto, per esempio alle multe che erano state inflitte alla GM per il caso dei blocchetti di accensione piuttosto che alla Toyota per le macchine che acceleravano da sole, anche in caso di negligenza comprovata da parte del costruttore si è arrivati a multe appena inferiori o appena superiori al miliardo di dollari. Nel caso di Volkswagen, diciamo, il caso è più significativo, c'è un'ammissione comprovata di frode, però è difficile immaginare che le cifre possano essere enormemente superiori. Ricordiamo comunque che per ora Volkswagen ha accantonato già circa 18 miliardi di euro per far fronte a tutte le potenziali spese. Peraltro c'è ancora tutto il capitolo degli eventuali risarcimenti chiesti dagli investitori per il crollo in borsa del titolo di circa un anno fa, crollo che abbiamo visto sia pure in misura inferiore si sta replicando oggi, sì, con un meno 4%. Diciamo che quello che si può dire è che la fattura finale dello scandalo di Sogel per Volkswagen è ben lungi dall'essere definitiva. Ti ringrazio, grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore, che sicuramente nei prossimi giorni sentiremo inviato a Parigi dove si apre il Salone dell'Auto. E restiamo in Germania perché c'è un altro caso che sta agitando le acque in queste ore, è quello di Deutsche Bank, che sta mettendo in tensione un po' tutto il settore bancario europeo. Un punto oggi sempre con un collega del Sole 24 Ore, nella fattispecie Marco Ferrando. Ciao Marco, dacci un'idea di quello che succede oggi. Sì, buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Beh, diciamo che le affinità tra il caso Volkswagen e quello Deutsche Bank non sono poche, nel senso che così come nel caso delle auto di cui parlavamo prima, anche per Deutsche Bank i guai arrivano dagli Stati Uniti e si parla anche in questo caso di una maxi multa 14 miliardi ancora per le vecchie cartolarizzazioni dell'inizio anni 2000, quindi prima del crack Lehman. Una multa che incombe sulla banca che già non sta bene da parecchio tempo, l'ultima semestrale non era sicuramente particolarmente lusinghiera, tanto è vero che si è parlato ancora di possibile intervento statale. Un'eventualità esclusa a più riprese, prima da Schäuble e poi dalla Merkel nelle scorse ore, ciò nonostante il titolo ovviamente continua a perdere, anche in questo momento sta facendo un meno 3%, e lo stesso andamento vede coinvolti i titoli subordinati, le obbligazioni subordinate, che sono quelle che potrebbero essere coinvolte o a livello di cedole non pagate oppure addirittura a livello di conversione nel caso in cui la situazione dovesse ulteriormente peggiorare. Questo sicuramente è un tema che terrà banco ancora nei prossimi giorni, anche perché non c'è soltanto Deutsche, c'è anche Commerce, altro gigante del credito tedesco, alle prese con un piano lacrime e sangue per tornare alla redditività. Quindi diciamo le banche non stanno bene in Italia, ma non soltanto. Ti ringrazio, grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Intanto la giornata, come vi dicevo, è negativa complessivamente in borsa. Tra i bancari vanno male Mediobanca, che cede il 3,5%, la Popolare di Milano il 2,6%, Banco Popolare il 2,5%, Intesa San Paolo il 2,4%. Torneremo a fare il punto sui mercati come sempre alle 13:30. All'estero, dopo mezzo secolo di conflitto armato e migliaia di morti, la Colombia è entrata ieri in una nuova era con la firma di uno storico accordo di pace tra il governo di Bogotà e le forze armate rivoluzionarie, le FARC. Vestiti di bianco come i 2500 invitati, una scena particolare, il presidente Juan Manuel Santos e il comandante delle FARC Rodrigo Londono hanno siglato l'intesa a Cartagena. A questo è dedicata l'analisi di oggi di Daniele Biacchessi. È indubbio che un accordo di pace dopo 52 anni di guerra tra le FARC e lo Stato colombiano rappresenta una buona notizia in un mondo contrassegnato da conflitti di ogni tipo. Il trattato firmato a Cartagena rappresenta l'inizio di una nuova era politica di tutto il Sud America e c'è la prima conseguenza immediata dell'intesa di pace. L'Unione Europea ha deciso di sospendere le FARC dalla lista delle organizzazioni terroristiche con la revoca temporanea delle sanzioni verso le FARC Patriarca, come il blocco dei beni, il divieto di mettere fondi a loro disposizione. Ora le FARC sostituiranno i proiettili con i voti e si trasformeranno da gruppo guerrigliero e terroristico ad un vero e proprio partito politico. Ma la forza simbolica dell'accordo e le scuse pubbliche del comandante delle FARC, Rodrigo Londono, non devono però far dimenticare tutto il peso drammatico della battaglia. Migliaia di morti, oltre 29 milioni di rifugiati interni, la cifra più alta al mondo fino alla guerra in Siria. Perché la memoria non si cancella solo con gli accordi. Così dunque l'analisi del martedì del nostro Daniele Biacchesi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro consueto giro per l'Italia. E il primo luogo che toccheremo è Bari, e per la precisione il Tribunale di Bari, perché curiosamente il Tribunale di Bari, in carenza di personale, si è trovato nelle cancellerie come impiegati anche dei barellieri della Croce Rossa. Questo per un curioso sistema di trasferimenti all'interno di varie, come dire, di vari enti dello Stato che è avvenuto. E poi ci occuperemo di Amatrice. La vicenda è stata sollevata dalla stampa. Ebbene, alcune delle casette di legno che stanno arrivando ai terremotati, che escono dalle tende per entrare in queste casette di legno, che devono essere una sistemazione semidefinitiva finché la città non sarà ricostruita, non rispondono al piano regolatore. Quindi ci sono degli occhiuti burocrati che arrivano e gli dicono quando la potete costruire. A tra poco. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di Renzi, che ha rilanciato il ponte sullo stretto di Messina. Abbiamo parlato di quello che succede alla giunta romana del Movimento 5 Stelle, nella quale anche Tutino ha deciso di rinunciare alla carica di assessore al bilancio, e il dibattito per le presidenziali americane. Abbiamo parlato delle banche e del settore auto, che oggi stanno pesando sui mercati. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e, come già vi dicevo prima del traffico, il primo tema che vogliamo affrontare, il primo posto che vogliamo toccare è Amatrice. Siamo in linea con Flavia Amabile, che è una collega giornalista della stampa. Flavia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti voi. Abbiamo letto con discreta attenzione il pezzo che hai firmato oggi, appunto, da Amatrice e dalle zone terremotate, nella quale abbiamo scoperto, appunto, che ci sono degli occhiuti burocrati che stanno girando e di fatto fermando la costruzione delle casette di legno nelle quali i terremotati si devono spostare dalle tende. Che cosa sta succedendo? Sì, diciamo che c'è molta amarezza, perché il cuore degli italiani è stato davvero grande. Hanno donato tutto quello che si poteva donare, e in particolare c'è stata una forte mobilitazione per dare una mano a quelli che vogliono restare nelle loro terre, anche se per tutto l'inverno, anche se in condizioni difficili, perché si occupano di allevamento, si occupano di legname, si occupano della loro terra, e quindi non possono andare via. Per poterli far restare sono state regalate diverse sì, casette in legno. Sono delle strutture che vengono appoggiate sul terreno in maniera tale che le persone possano viverci. Allora, Flavia, abbiamo un problema audio. Io ti chiedo di stare ferma, perché probabilmente è il filo del telefono che non funziona particolarmente bene, oppure abbiamo un problema di connessione. Quindi se stai ferma riusciamo a sentirti meglio. Vai, prosegui. Sì, chiaramente tutto questo loro vorrebbero farlo nel loro terreno, nel terreno di loro proprietà, ma le leggi che sono probabilmente splendide in casi normali, in situazioni di emergenza si rivelano del tutto inadeguate, perché la legge prevede che qualsiasi struttura che non sia un camper, una roulotte, quindi qualcosa di mobile, viene considerata abusiva, anche se uno la pone sul proprio terreno. Quindi o c'è un'ordinanza del sindaco che prevede che in questi casi, finché dura la situazione di emergenza, per casi che siano ampiamente verificati, si possa montare questa struttura, oppure il regalo che è stato elargito a queste persone diventa del tutto inutile. Lo stesso per i bagni chimici, lo stesso per Si sono rischiate anche altre situazioni. Sì, questo, dico, questo è un cosa che tra l'altro tu hai verificato, no? C'è gente che si è vista arrivare insieme alla casa, più o meno, diciamo così, insieme alla casetta di legno, anche appunto il messo che gli viene a dire: guardi, qua nel suo terreno questa cosa non ce la può mettere perché appunto viola il piano regolatore ed è un abuso edilizio. Tra l'altro c'è addirittura un caso di Illica, un luogo dove non arriva la corrente perché non si possono mettere i pali elettrici per via di un sequestro della magistratura. Sono sì, tutti... esatto. Poi c'è un caso a Macchia di una persona che, queste sono tutte frazioni, quindi sono luoghi, sono borghi, c'è una persona che vive lì insieme ad altre 7-8, vorrebbero attaccarsi alla centralina dell'energia elettrica con un contatore, quindi pagando la corrente, ma gli hanno detto che non è possibile. Sono diciamo appunto beffe che si potrebbero forse evitare con un po' di elasticità in più legata all'emergenza. Evidentemente all'emergenza e al buon senso. Io ti ringrazio, grazie Flavia Amabile della Stampa per averci aiutato in questo racconto. E la prossima tappa del Giro per l'Italia è Bari e siamo in linea con Saverio Cutrone, responsabile per la Regione Puglia di USB Giustizia, un sindacato. Cutrone, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. Qua che cosa succede? È una notizia che abbiamo pescato dal Corriere del Mezzogiorno, la racconta Bepi Castellaneta. E che cosa succede? Succede che nei tribunali c'è poco personale, anche personale amministrativo, non mi riferisco naturalmente in questo caso ai magistrati. E come lo si sostituisce? Lo si sostituisce pescando dal personale in esubero proveniente da altri luoghi, per esempio le province, ma anche la Croce Rossa. Quindi avete nel tribunale di Bari 11 barellieri, ho capito bene, che lavorano in cancelleria o cose simili? Beh, gli 11 non hanno tutti quella qualifica, come dire, qualcuno ha esasperato il concetto di barellieri, ma certo c'è personale che è risultato in mobilità per effetto della chiusura della Croce Rossa Militare ed è stato destinato in tutta Italia, non soltanto a Bari, a come dire, tentare di rimpolpare gli organici del Tribunale. Ma stiamo parlando anche di persone che hanno una diversa specializzazione e diversa attività, che hanno svolto diversa attività lavorativa. Certo, naturalmente. Cioè, arrivano là completamente non formati. Questo assolutamente sì. Nel senso che l'impegno che il Ministero e chiunque comunque favoriva questo esodo del personale da una istituzione all'altra avrebbe sicuramente dovuto farsi carico, prima dell'inserimento nell'organico, di una adeguata formazione professionale. Formazione che evidentemente non c'è stata, no? Quindi ci sarà basata soprattutto sulla buona volontà di noi altri che... Ma mi faccia capire, ci sono anche medici, capisala, ho capito bene, infermieri. Adesso si trovano, non lo so, a recuperare faldoni da una parte all'altra, portarli da una stanza all'altra del tribunale dopo... questo. Assolutamente, anche in qualifiche, quindi utilizzati anche in maniera non, come dire, decisamente corrispondenti anche rispetto certo, io ho un medico preferisco usarlo come medico piuttosto che appunto per andare a recuperare. Infatti la polemica che hanno innestato anche a suo tempo i colleghi provenienti dalla Croce Rossa Militare, che probabilmente per esempio sarebbe stata molto più utile una loro collocazione nella protezione civile piuttosto che nella giustizia. Che fate, sciopero su questa cosa? Guardi, noi abbiamo sicuramente come sindacato indetto già una mobilitazione generale, quindi proclamando uno stato di agitazione personale che sfocerà anche nello sciopero che la USB, comunque pubblico impiego, e l'USB tutta ha proclamato per il 21 ottobre. Sì, Quindi è ovvio che tutte queste cose si destano in un, come dire, discorso che avrebbe meritato maggiore attenzione e maggior ascolto, visto e considerato che del problema della carenza degli organici parliamo di migliaia di unità in tutta Italia, noi ne parliamo da circa 20 anni. Non solo voi a dire il vero. Va bene, la ringrazio, grazie. Grazie Saverio Cutrone, grazie per essere stato con noi, responsabile della Regione Puglia di USB Giustizia. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati con un po' più di dettaglio e poi riprendiamo il nostro giro per l'Italia. Beh, avrete sentito la puntata di Gianluca Nicoletti che ha fatto oggi, dedicata al tema di quanti incidenti avvengono perché stiamo là a leggere o a rispondere ai messaggi. Ebbene, oggi c'è una vicenda raccontata dal quotidiano La Repubblica della sperimentazione che si sta facendo a Torino, ossia viene, in caso di incidente, viene sequestrato il cellulare e viene controllato se veniva usato nei minuti immediatamente precedenti all'incidente per verificare se così era. Parleremo col comandante dei vigili di questo e poi la disfida genitori scuole sul panino. Abbiamo un nuovo caso tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. Renzi rilancia il ponte sullo stretto di Messina. Va fatto, può creare 100.000 posti, dice oggi il varo del DEF. Si valuta la 14esima per l'innalzamento della 14esima per le pensioni minime. Il Salvatore Tutino rinuncia a fare l'assessore al bilancio del comune di Roma. Il magistrato contabile dice: mi tiro indietro, sono da 20 giorni sulla graticola. Dibattito per le presidenziali americane, vince Clinton con il 62% delle preferenze tra gli intervistati, ma è solo il primo round di tre. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo e la prossima tappa del nostro giro per l'Italia è Torino, dove siamo in linea con Alberto Gregnanini, che è il comandante della Polizia Municipale di Torino. Buongiorno comandante, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, buongiorno. Eccoci qua, è qualche giorno che ne stiamo parlando di questi temi, ne ha parlato, lo ricordo agli ascoltatori, anche Gianluca Nicoletti nella sua trasmissione di oggi. Se volete potete andare a riascoltarvi il podcast. Il tema è: a cosa sono dovuti gli incidenti? E sempre più spesso gli incidenti sono dovuti alle nostre distrazioni, al fatto che guardiamo un messaggio che ci arriva sul cellulare o addirittura rispondiamo ad un messaggio sul cellulare quando non ci passa vicino un Pokémon particolarmente raro e quindi appunto tiriamo fuori il cellulare per catturarlo proprio mentre stiamo guidando. Allora, Gregnanini, voi avete da un po' di tempo, a dire il vero, lanciato questa iniziativa. Di fatto voi, quando c'è un incidente, sequestrate il tablet o il cellulare, ho capito bene? Beh, non proprio. Dunque, la cosa è in fase sperimentale. Certo, noi l'abbiamo già collaudata e devo dire che su richiesta dell'autorità giudiziaria abbiamo già fatto un'indagine forense concomitante con un gravissimo incidente e abbiamo esaminato tutti i dati relativi al telefonino, allo smartphone, al tablet, tutte le cose che in qualche modo potrebbero essere stati elementi che hanno avuto un ruolo nella distrazione e di conseguenza nella definizione della responsabilità nella ricostruzione del sinistro stradale. È una cosa alla quale stiamo lavorando da un po', anche perché per poterla mettere a sistema dobbiamo naturalmente testarla, però devo dire che ad oggi i risultati sono sicuramente quindi, interessanti. In sostanza, quando li avete in mano, voi che cosa fate? Li analizzate e verificate se nei minuti immediatamente precedenti l'incidente, ammesso che siate in grado di stabilire quali siano i minuti immediatamente precedenti, insomma sulla base delle testimonianze, eccetera. Cercate di capire se è stato utilizzato, insomma. Se c'è stato un uso di questi strumenti, tenga conto che comunque un'indagine di questo tipo non può essere estesa a tutti gli incidenti stradali, ma naturalmente si fa ricorso a questo tipo di valutazione, a questo tipo di indagine solo in presenza di danni alle persone, danni gravi alle persone. Anche perché costa un patrimonio, immagino, comandante, insomma, no? non è proprio buon mercato, ecco la cosa, soprattutto come impegno di tempo da parte del personale. Certamente. Certo che tutto quello che in qualche modo può essere utile a definire quelle che sono le responsabilità non è uno spreco, tantomeno di denaro, ecco, però oggettivamente diventerebbe un po' complesso, ecco. I risultati fino adesso che cosa vi dicono di questa sperimentazione? Quando siete partiti? Come stanno andando le cose? Noi ci siamo concentrati su questo tipo di sperimentazione e abbiamo già dato riscontro all'autorità giudiziaria che ci ha incaricato di fare questa verifica in occasione di questo incidente. È un po' che lo stiamo testando, dobbiamo affinare anche noi le tecniche di investigazione e ci auguriamo che ci siano opportunità per ottenere anche eventuali finanziamenti, e di questo ne abbiamo parlato al recente convegno di Viccione, dove un rappresentante del Ministero dei Trasporti si è dimostrata particolarmente interessata al nostro tipo di sperimentazione, perché noi in quella sede l'abbiamo in qualche modo illustrato e devo dire che ha riscosso un certo interesse. Sì, tra l'altro, se non ricordo male, c'era qualche associazione addirittura che l'anno scorso lo propose di inserirlo proprio nel codice, insomma, cioè il fatto che appunto questo avvenga automaticamente, non per un'iniziativa magari sperimentale del Comune di Torino, della Polizia Municipale di Torino, certo. Ma che evidentemente avvenga a livello nazionale. Ci sono altri strumenti però per controllare tutto questo che vengono utilizzati, per esempio il telelaser o cose di questo genere? Il telelaser tenga conto che può essere utilizzato per rilevare eccessi di velocità, l'etilometro per accertare presenza di tasso alcolemico superiore a quello consentito dal codice, degli strumenti per rilevare se la guida è sotto l'effetto di stupefacenti. Questa è sicuramente una novità, però ormai è dimostrato che la distrazione derivante dall'uso del telefonino, dello smartphone, è sicuramente una delle cause maggiori di incidentalità. Io la ringrazio, grazie Alberto voi. Gregnanini, comandante della Polizia Municipale di Torino, e le dico anche questo: quando avrete dei dati definitivi un po' più chiari su come sta andando questa sperimentazione, magari la richiamiamo, teniamoci in contatto e vediamo un attimo se riesce a raccontarci qualcosa di più. Silvana Alterio, portavoce del comitato La Scuola Che Vogliamo, e il nostro Giro per l'Italia si sposta a Lucca. Buongiorno Alterio, benvenuta. Buongiorno. Allora, una questione, io già ve l'avevo detto quando ce ne siamo occupati, e se ne sono occupate anche altre trasmissioni, però ci ritorniamo perché sapevamo che questa vicenda avrebbe attraversato tutto l'anno scolastico inevitabilmente. Le grandi battaglie per portare i propri figli, mandare i propri figli a scuola con il loro panino, con la loro schiscetta, come si dice a Milano, o con il loro pasto di qualsiasi tipo sia. State andando sul penale, Alterio, mi sembra di aver capito. Dunque, in questi giorni è partita ieri la mensa a Lucca da noi e le sentenze sono state disattese e sì, ci stiamo organizzando per vedere se ci sono i termini e quali sono per andare sul penale, in quanto appunto queste sentenze di Torino hanno fatto luce su un diritto che esiste da sempre, cioè quello a usufruire, se non si vuole, un servizio a pagamento del pasto da casa, perché non si può costringere una scuola pubblica a pagare un servizio. Senti, quindi... ma che volete fare? Volete denunciare? Chi volete denunciare? Dunque, dirigenti scolastici? No. Noi in particolare nessuno, vogliamo semplicemente attenerci alla legge, la quale dice che il diritto allo studio gratuito va rispettato e che i dirigenti devono organizzare, quindi chi delle famiglie vuole usufruire del pasto da casa deve avere il diritto di farlo, però, e i dirigenti devono predisporre lo però, però Alterio, su questo fronte mi sembra che sia stato chiarito abbastanza bene dal Ministero, così come dalle amministrazioni locali, così come dai dirigenti di zona, delle scuole, eccetera, eccetera, che in realtà la sentenza di Torino vale solamente per ricorrenti, no. O no? No, questa è un'informazione assolutamente sbagliata, ci sono state poi dopo anche altre ordinanze fatte dai giudici per un ricorso d'urgenza, dove i giudici hanno specificato che comunque sia la giurisprudenza a cui fanno riferimento è valida a livello nazionale, cioè il diritto alla scelta del pasto, se avvalersi o no della mensa, è sancito da un decreto legislativo valido su tutto il territorio nazionale. Quindi semplicemente siamo di fronte all'assurdo che in Italia dobbiamo fare i processi per far attuare le leggi vigenti. Beh, però non ho capito, allora avete detto che andate sul penale, per andare sul penale bisogna denunciare qualcuno, chi denunciate? Ovviamente i dirigenti sono i responsabili dell'organizzazione scolastica. Quindi denunciate i dirigenti scolastici di Lucca? Assolutamente sì, che hanno, cioè quelli che non hanno rispettato le sentenze, quindi che non hanno consentito un'organizzazione in cui i bambini potessero mangiare in consistenza senza essere discriminati perché portano il pasto da casa. Ma ci tengo a precisare che tutta questa storia sul pasto da casa è importantissima perché apre una breccia nel muro delle mense scolastiche, perché tutto è partito dal fatto che le mense sono gestite a livello nazionale da queste grosse ditte di ristorazione che fanno talmente tanti pasti che la qualità è molto dubbia. Ci sono quindi tavoli aperti di genitori, commissari mensa. Alterio, quanto pagate voi? Quanto pagate voi di mensa? Perché la siamo arrivati a 5 euro costo massimo. 5 euro al giorno di costo massimo. Sì. Okay. E solo l'anno scorso c'era un giro complessivo di 3.200.000 euro intorno alla mensa scolastica. Quindi sono grosse cifre. E su cui insomma le ditte grosse fanno pressione. 3.200.000 mi scusi, ovviamente sì. Lucca stiamo parlando, no? Stiamo parlando di Lucca. Stiamo parlando di Lucca, certo, che è una piccola città, quindi la dimensione realtà, certo, no. E quindi la dimensione è notevole, essere. Ma ci sono stati casi da voi di bambini che sono stati lasciati a digiuno o messi fuori dalla stanza perché non potevano mangiare? L'anno scorso ci sono state diverse discriminazioni in questo senso, bambini fatti mangiare in corridoio e comunque in generale turnazione, bambini messi ad aspettare i compagni mangiare, a volte bambini in minoranza discriminati proprio perché per il pasto da casa, quindi questo ha creato dei fastidi tra bambini stessi, tra genitori, insegnanti, bambini, insomma delle cose che non devono accadere assolutamente nelle scuole. E chiaramente tutta la preoccupazione di noi genitori, perché noi parliamo da genitori, è che i nostri figli mangino roba di qualità e che ci sia permesso ovviamente come famiglie di dare una direzione alimentare ai nostri figli, cosa che la nostra Costituzione sancisce assolutamente. Cioè stiamo facendo una lotta per vedere riconosciuta una libertà che dal punto di vista costituzionale è già affermata. Ma quando parte la denuncia? In questi giorni, guardi, ci stiamo organizzando per formalizzarla nella maniera corretta. Comunque stiamo intanto guardando a quello che succede, domani c'è di nuovo un altro giorno di mensa, la mensa non è ancora partita tutta, quindi sono proprio, lei ha la notizia fresca, quanti ne siete? 100%. Dunque soltanto nella mia scuola siamo 20, su una sessantina di bambini, 28 portano da mangiare da casa. E ho notizia di un'altra scuola dove ci sono 22 bambini che vengono ritirati dalla mensa. Queste per come i primi dati di partenza. Al di là di questo, ripeto, il pasto da casa si inserisce nel generale. Diciamo, è anche una forma di protesta. Nei confronti della qualità della mensa. Mi sembra di aver capito. Insomma, in sostanza è questo. Cioè, lei dice: noi saremmo ben contenti di far mangiare i nostri figli in mensa, solamente che fa schifo. Non sappiamo cosa mangiano e sappiamo che sono produzioni di cifre di pasti al giorno incredibili che insomma trasportati, che insomma per tanti motivi lasciano molto a desiderare, soprattutto ci sono molti bambini che non li mangiano, i cui genitori pagano ugualmente. Questa è una cosa che non va bene. La ringrazio, grazie Silvana Alterio, portavoce del comitato La Scuola Che Vogliamo. Lucca, mi sa che una volta a settimana su questo tema ci dovremmo tornare, perché come avete visto ne montano e ne monteranno tutto l'anno. Ci fermiamo, c'è il traffico, ci risentiamo poi Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.